bimbi che si chiamano Mario e Dora. È una storia vera che mi ha raccontato questo signore che si chiama Mario. Mario ora ha, aspettate, 35 a 90 anni, quindi è un signore ormai, questa va riscritta, ormai grande. Mario e Dora abitavano a Treppio, quindi nell'Appennino pistoiese. Per tanti anni i loro genitori avevano fatto la transumanza a Maremma. Poi, negli anni della guerra, la transumanza si era fermata. Dal 1943 al 1946 i pastori non si sono spostati per motivi proprio di pericolo, perché c'era il rischio di non Per le pecore, per loro, perché c'erano i bombardamenti, c'era tutto quello che ci possiamo immaginare di negativo. Nel 1946, quindi tantissimi anni fa, il babbo di Mario, Mario Ramazzotti, Michelangelo Ramazzotti, ha deciso di tornare in Maremma con le pecore. Ma c'era un problema, perché le strade erano tutte rovinate, perché c'era stata la guerra, bombardamenti, gli attentati e tutto quello che ci possiamo immaginare. Le ferrovie non funzionavano e quindi decisero di tornare in Maremma a piedi. Il Michelangelo era una sorta di leader in questo paese, raggruppava non soltanto le sue pecore ma anche le pecore dei parenti, dei vicini, dei conoscenti, creando un branco di circa 900 animali, quindi non pochi, perché 900 pecore sono veramente tante. Nel 1946 decise che il figlio, che Mario, aveva 11 anni. Voi quanti anni avete? 10. Un anno più di 11. Voi? 11. 11, 11. Ecco, allora, più o meno come voi, decise che Mario avrebbe guidato le 900 pecore da portare in Maremma. Aveva altri due o tre ragazzi che lo aiutavano e poi una bimba, Dora, che era un anno più grande di lui. Dora aveva 12 anni, quindi lei era grandissima. E Mario e Dora sono partiti da Treppio il 24 settembre del 1946. Senza il babbo. Allora, i babbi c'erano, ma facevano altro. Sia il babbo di Dora sia il babbo di Mario erano con il cavallo, il calesse, e quindi facevano un percorso diverso rispetto alle pecore. Perché? Raggiungevano il podere dove si sarebbero fermati la sera, preparavano il recinto per le pecore e quindi i tempi non erano gli stessi rispetto a chi andava invece con chi andava a piedi. Sul calesse cosa portava le reti per fare il recinto? Portava la caldaia per fare il formaggio e tutti gli attrezzi per fare il formaggio. Portavano, mi ha raccontato Mario, il sacco delle scarpe, quindi le scarpe per potersele, non le scarpe buone, ragazzi, parliamo di scarpe da campagna. Se si rompevano le legavano. Esatto, il sacco dei panni, quindi qualcosa di più pesante probabilmente, il sacco della farina e il sacco dei fagioli. Questo era ciò che portavano verso la Maremma. Quindi i genitori andavano avanti con il calesse e il cavallo e i ragazzini portavano le pecore. Quindi loro hanno fatto questo percorso lunghissimo, perché sono circa 230 chilometri da Treppio, sono scesi dalla montagna, sono arrivati a Pistoia, lì hanno fatto la prima tappa, poi si sono spostati verso Prato e dopo sono scesi piano piano verso noi. L'ultima tappa è stata a Tatti, quindi Montieri, a Tatti. Da Tatti sono venuti a Giuncarico, perché loro avevano avevano affittato le terre, per chi conosce il territorio, vicino a Lupo, tanto per capirsi. Avevano affittato le terre lì dalla famiglia dei proprietari E quando Mario e Dora sono arrivati, no, Dora si era già lasciata, si era già fermata perché andava a un altro potere. Quando Mario è arrivato al lupo, appunto, da lontano ha visto delle cose bianche distese per terra e pensava che le donne avessero fatto il bucato, avessero lavato le lenzuola. In realtà c'era una fiera di bestiame, e erano vacche maremmane distese in questo campo. E Dora e Mario si sono fatti compagnia, hanno rubato fichi secchi alla vecchietta che gli aveva dato il caffè latte senza zucchero, e quindi loro intanto si sono riempiti il pancino e hanno probabilmente chiacchierato. Sono due persone meravigliose, vispissime, e Mario una notte, perché nel viaggio di ritorno un pezzo di percorso lo facevano di notte, probabilmente perché era troppo caldo, per non far affaticare gli animali, e una notte portava la lanterna, era avanti al gruppo, con questa lanterna illuminava più o meno le pecore e gli altri garzoni, e a un certo punto il buio totale, perché Mario è caduto dentro un fosso con la lanterna, si è bagnato tutto e l'hanno ritirato su. Hanno riacceso il lume, perché sicuramente era una candela dentro la lanterna o olio, non so cosa fosse, e ha continuato il suo percorso tutto bagnato fino a che la mattina dopo, forse si era già asciugato, a quel punto lì non ha avuto nemmeno bisogno di cambiarsi. E poi da solo, per altri almeno altri 2-3 anni, lui ha continuato a portare le pecore fino alla Maremma, quindi ormai era un esperto in questa in questo percorso. La vostra età, sentite un po', vivi tutta la notte da solo a portare a guidare un regge le pecore, sembra passato secoli, poi invece pensate che non incontravano praticamente nessuno, quindi erano soli in mezzo al niente, con il pericolo dei lupi, perché il pericolo dei lupi esisteva. E lui mi ha raccontato che una delle cose più belle è stato passare da Montieri, perché le persone aspettavano, sentivano i campani, sentivano il rumore, lo scalpiccio, e quindi aspettavano nelle strade, nelle piazze, era una festa, era un momento di festa. E da tante pecore che erano, quando le prime pecore uscivano dal paese, le ultime non erano ancora entrate, quindi questo fiume di animali riempiva completamente il paese. Però c'era anche un'altra cosa: nei paesi avevano un po' paura, perché qualcuno rubava le pecore, si metteva in basso e o vicino a ponticini o vicino alle porte le prendeva per le zampe, poi le trascinava via. C'era la fame, diciamoci la verità, c'era anche una grande fame in quel momento, e quindi era abbastanza normale, cioè diciamo normale, poter fare questa